Sì, sei un po' basso il segnale. Cappa, non sei fortissimo, non so come mi ricevi tu a me, però io ti sento 7, ti sento, tu non mi senti. Antonio va lì madella davanti dolce, è strano però. Capo, ti avrei dovuto sentire forte da quella zona. Capo, ti avrei dovuto sentire più forte. Cioè va bene lo stesso, ma molto bassa la tua antenna. Capo, ma c'è da poco perché non ti ho mai sentito io, ma perché sto sempre prima modulato di più. Adesso vabbè, sto modulando un po' di meno perché adesso si fa la coro. No, ho iniziato a fare la mia Scusi, come fai a sapere se il conduttore si abbia... Chiamano.